della crisi al gran istante. Io sotto queste piante, se madama intermette, resto per gli fresco una mezz'ora. Il fresco restaci in buono. Il birbo è sente della divertiamci allora.